Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Franco Piantanini in redazione, Filippo Aureggi in regia. Saluto subito il coach Dan Peterson. Ciao coach. Ciao Carlo, amici sportivi, buon pomeriggio a tutti. E vi do anche i contatti subito: 800 24 00 24, numero verde, messaggi 349 238 6666. Coach, qui con me oggi una voce che certamente conosci, Pietro Scibetta, voce del basket di Eurosport. Pietro Scibetta, che è il mio partner in crime, che okay? È il mio socio in crimine, che è stato lui a collegarmi con Twitter. Ragazzi, che cinema, però mi diverto molto, quindi lo faccio quando posso. Capo redattore di Realista Ufficiale NBA, Pietro Scibetta. Coach, partiamo dall'Eurolega. Ciao Pietro. Buongiorno a tutti, buongiorno coach. Ciao Peter, grazie ancora. Ma di niente. E tra l'altro su Twitter, partirei subito da lì, poi parliamo di Eurolega, coach. Mi sembra che ha innescato un po' di polemiche, no? Perché ti seguiamo. Io? No, Gallinari infortunato. Ah! Tu dici a stagione compressa, maggiore rischio di infortuni. Com'è il tuo pensiero in proposito? Well, innanzitutto le statistiche bisogna vedere da due lati, ok? Nel senso che le statistiche fanno vedere che la incidenza di infortuni rispetto ad ogni partita è uguale, cioè stesso numero di infortuni per partita. Il problema è che giocano più partite e quindi più frequenti gli infortuni, meno recupero, meno stress. E poi non dimenticare che i giocatori di NBA non hanno potuto usare, diciamo, le facilità e palestre eccetera della società dovuto al lockout durante l'estate, quindi questo è stato un danno ulteriore. Poi, anziché 4 settimane di prestagione, solo 2, anziché 8 partite di prestagione, solo 2, quindi tutto un rallentamento della preparazione, condizionamento di giocatore, e quindi sono più vulnerabili giocando più partite e logico sono rotti tutti, cioè non c'è una squadra senza gravi infortuni. Sì, sì. Pietro, come la pensi? Ma questa certamente è una delle variabili da tenere in considerazione all'inizio di questa stagione. Banalmente si è sempre detto che la stagione accorciata presenta tante problematiche, questa era una delle problematiche più importanti, e ovviamente inserendo anche questa novità del back to back to back con 3 partite in 3 notti, in 3 sere consecutive, si aumentava esponenzialmente la possibilità di vivere infortuni come questo. È vero che ci sono stati molti infortuni di natura traumatica, adesso però stanno aumentando anche altri tipi di infortuni dovuti a sforzo, dovuti a stress, dovuti a muscoli e corpi portati veramente all'estremo. Certo. Coach, leggiamo la settimana dell'Eurolega con Cantù, che ha sprecato l'occasione forse per creare un'altra impresa storica. Tel Aviv sembrava la partita in mano e poi questa partita è scivolata via 75-60. Siena 8 vittorie di fila, Milano quantomeno si rifà la faccia. Curioso che nessuna squadra sia ancora qualificata e nessuna eliminata matematicamente. Matematica non è un'opinione, dopo 4 delle 6 giornate nessuno ufficialmente matematicamente è dentro e nessuno matematicamente è fuori. Parlando delle 3 squadre, ovviamente Siena ha trovato sul ritmo, anche Rakočević comincia a fare il suo contributo, è tornato Lavrinovic, la squadra in forma, ha sorpassato qualche momento difficile pure in campionato, e la squadra è una corazzata. Su Siena non scopriamo niente, loro per me finiranno prima nel girone e eviteranno di giocare contro il CSKA, pure con CSKA che era perso ieri sera. Milano ha tirato, diciamo, dentro i polmoni un po' di ossigeno, ok, non hanno vinto di 16 come avrebbero voluto vincere di 16 punti, però con Bremer in campo hanno vinto 3 partite su 3, 2 in campionato con Pesaro e a Bologna, e questo qua, hanno perso a Kazan senza Bremer e lui ha dato un po' di stabilità del gioco della squadra, cioè sa condurre una squadra, è un vero playmaker, sa fare pick and roll, dà tranquillità a tutti. E guarda caso Fozis, che prima trovava solamente i tiri un po' squilibrati, adesso piede per terra, equilibrato, e fa 3-4 canestri da 3. Quindi la presenza di Bremer è stata veramente una grande mossa di Sergio Scariolo, che lo conosceva già, avendo allenato lui a Malaga. Non di Cantù, non voglio parlare di occasione sprecata, occasioni perse si può dire, perché loro veramente hanno fatto un primo tempo, i primi 2 quarti, a livello della perfezione. Poi terzo quarto, Maccabi è venuto. Io ho sempre detto che nel basket, sto ripetendo quello che ha detto il coach al mio liceo, Danny Blaze, meglio andare all'intervallo sotto di tre anziché sopra di tre. Quindi Scantù è andato sopra di due, sì, perché l'altra squadra viene in campo con grande determinazione, come ha fatto proprio Maccabi in difesa. Tutto il terzo tempo Cantù ha fatto solo 5 tiri liberi, nessun cresce, questo è un record di qualche tipo, non so. Però non voglio criticare Cantù per questo, vuol dire che Maccabi ha fatto una difesa spietata, aggressiva su ogni pallone, ha negato anche il rimbalzo in attacco da Cantù, sì, e hanno sfruttato le occasioni bene. Senti Costi, ti chiedo ancora questo prima di salutarti, Perkins cosa può dare a Cantù e cosa può togliere a Cantù, se può togliere qualcosa a un giocatore importante come Doron Perkins? Well, lui è un giocatore esperto innanzitutto, cioè sia il campionato che la Lega Cantù cerca un giocatore di esperienza, perché loro vogliono produrre qualcosa adesso, cioè poi intelligenza, gioco, non è uno che tirerà 20 punti, bisogna dimenticare questo. Lui è un giocatore che aiuterà i compagni a giocare meglio e porta con lui grande mentalità vincente, ok? E Cantù giustamente c'è. Guarda il numero che ha fatto Cantù cercando Gianluca Basile, sì, e prendendo lui, ok? Sì. Cosa, descrizione di Basile, prenderlo e metterlo a Doron Perkins, ok? Perché Perkins è questo tipo di giocatore, ti dirà qualcosa indefinibile, indecifrabile per le statistiche, però palpabile in campo, cioè lui è veramente il giocatore vincente, un campione. Grazie coach, sentiamo la settimana prossima. Ciao Pietro. Ciao coach, ciao, alla prossima. Ciao. Ci sentiamo venerdì quando saremo in tempo di Coppa Italia, Coppa Italia time. Pietro, cioè, sarà già qualcosa di molto interessante, perché Siena adesso non so chi la va a pigliare quando le partite contano. No, è vero, però quest'anno Siena comunque qualche problema di continuità, almeno in campionato, ce l'ha avuto. Credo che sia stato anche un fatto inconscio in alcuni giocatori, quello di magari dosare le energie e scegliere le energie di buttarle in Eurolega, perché in Eurolega stanno giocando con una padronanza e un senso del dominio delle partite. No, certo, in questo momento la stagione ci sta, poi stanno cavalcando un McCaleb che al momento francamente è di gran lunga il giocatore più dominante in Europa da un punto di vista individuale, e nonostante 5 sconfitte in campionato sono ancora lì, sono avanti con 4 punti di vantaggio sulle inseguitrici, quindi è una situazione molto tranquilla. Chiaro che giocarne 3 consecutive in 3 giorni, in 4 giorni è un problema. Hanno una competizione interna più forte, lo abbiamo già visto l'anno scorso con una finale vera giocata contro Cantù. C'è Milano che non vince qualcosa da ormai dal 1996, e questa Coppa Italia rappresenta un'opportunità, anche considerata la profondità del roster di Milano, di fare la differenza in quei giorni lì. Volevo... Le ultime stagioni per Milano la boa della Coppa Italia è sempre stata qualcosa di negativo, cioè ha segnato negativamente la stagione. Sì, da lì è partito sempre un momento molto negativo della stagione, tra l'altro 2 volte consecutive hanno perso con Avellino, che è una squadra che ha attraversato negli ultimi anni problemi enormi da un punto di vista economico, e ogni anno perde dei pezzi, però è sempre lì, è sempre a vincere le partite. Segnalava proprio il coach il rendimento di Igor Rakočević. Io credo che un aiuto a Rakočević paradossalmente l'abbia dato Kaukenas, infortunandosi, perché gli ha liberato il suo posto congeniale, cioè quello di guardia, di realizzatore. Sinceramente Rakočević era un giocatore in più, un giocatore di cui insomma ci siamo molte volte domandati quale utilità poteva avere per Siena, perché... in quello spot, in quel ruolo in cui c'era un overbooking evidente. Certo. Cioè, perché Rakočević? Esatto. Questa è la domanda. Poi l'infortunio di Kaukenas ha smaltito un po' ha liberato un po' di minuti, adesso Rakočević è certamente funzionale a Siena. Ci fermiamo perché è arrivato al posto di Summers, ma magari ne parliamo dopo. Ne parliamo naturalmente dopo, adesso abbiamo il traffico, e già vi dico, al rientro vi faccio sentire un'intervista che Dario Ricci ha realizzato con Ettore Messina. Dopo Palla Spicchi. Sacco di temi, di cose da farvi ascoltare, di ospiti in questa puntata di Palla Spicchi. Pietro Scibetta è qui con me, e come annunciato adesso vi faccio sentire, che sarà anche uno dei temi di discussione se volete, 800240024, questa intervista di Dario Ricci a Ettore Messina, adesso come sapete assistant coach dei Lakers, ma l'allenatore, uno degli allenatori più quotati del mondo europeo, del vecchio continente. Messina. I've been in love more times than I care to remember.

però sicuramente Casale non è stata fortunata. Cosa ti piace e cosa no in questo momento della tua squadra? Ma mi piace la voglia e la determinazione di perseguire un risultato indipendentemente dalle problematiche che abbiamo. Insomma, è un momento in cui non abbiamo una grandissima salute e stiamo aspettando, ti devo dire, la sosta con impazienza, perché abbiamo giocatori contati e soprattutto giocatori importanti che dovranno un pochino rigenerarsi. E quello che non mi piace è questa discontinuità tra rendimento in casa e rendimento fuori, al di là del fatto di vittorie o perse, perché effettivamente c'è una differenza enorme di ciò che riusciamo a produrre in casa rispetto a quello che riusciamo a produrre in trasferta. Sì, intanto Varese comunque, la Varese di Charlie Recalcati è sopra il 50%, Pietro Scibetta 10 vinte, 9 perse, 20 punti, che comunque sono una buona classifica. Siamo scontenti, non siamo assolutamente scontenti, perché poi noi non siamo quelli che dicono con due vittorie in più potevamo essere secondi o terzi, perché sappiamo benissimo che potevamo avere magari due vittorie in meno, vedi la partita di Casale o la partita contro Roma in trasferta, anche quello, o addirittura in casa con Caserta, dove abbiamo fatto molta fatica, per cui insomma credo che dobbiamo essere contenti di ciò che stiamo facendo. Posso, una domanda per lei da allenatore che ovviamente ha una carriera enorme alle spalle, in questo paese qua, dove voi allenatori siete sempre condannati a convivere col singolo risultato, no? Avete vinto questa partita a Casale, seguono le dimissioni di Marco Crespi. Quanto distacco c'è poi tra la sostanza della partita e il risultato? Nel senso, se non entra quel tiro di Kangur, che è un tiro assolutamente estemporaneo, Casale vince la partita e molto probabilmente Crespi rimane al suo posto. Sì. Che differenza c'è tra un tiro di Kangur, allora, insomma? Non è stato un tiro estemporaneo, ma è stato un tiro costruito. Sì, no, dico, però è entrato di tabella, quindi cioè, è stato fortunato, in quel senso lì. Ma difatti, cioè le mie difficoltà sono sempre quelle di far capire alla squadra, e non solamente alla squadra, ma soprattutto a chi circonda la squadra, che la cosa importante è fare la cosa giusta, e molto spesso la cosa giusta non vuol dire fare canestro, perché deve darti la serenità di avere voluto costruire un tiro che era quello che la squadra voleva, e poi dopo è chiaro, la differenza la fa, tiro va dentro, tiro va fuori, vinci o perdi. Io in una situazione analoga ho perso una finale, la possibilità di andare in finale di Eurolega proprio con la stessa costruzione di un tiro preso con il miglior tiratore che avevamo, che però invece di metterlo dentro è andata fuori e non abbiamo fatto la finale di Eurolega, però non potevo dire che era un tiro sbagliato, ce ne volle per far capire che comunque quella era la scelta giusta. Purtroppo il nostro lavoro è legato a queste cose qua, e quindi siamo legati ai risultati, quindi molte volte ti gira bene, per quello che non dico che bisogna essere fatalisti, perché non bisogna essere assolutamente fatalisti, ma bisogna cercare di perseguire sempre con la massima professionalità il risultato e mettere nel lavoro quotidiano tutto ciò che giustamente devi mettere per arrivare alla partita e essere pronto a vincere, però devi sapere anche che poi dopo molte volte fai tutto il necessario e può anche non essere sufficiente, altre volte magari un pizzico di fortuna ti fa girare una stagione. Un sacco di serenità. È un lavoro fatto così. È un lavoro fatto così di cui bisogna accettare anche questi limiti. Senti Charlie, io non dispero di riuscire a riportarti qui un venerdì a parlare con me per un'ora intera. No, speriamo, volentieri, guarda. Diamoci questo appuntamento pubblico. Vediamo insomma quando ci sarà la possibilità, ben volentieri. Grazie. Volentieri vostro ospite. Grazie Charlie. Grazie a voi. Grazie. Buona giornata. Grazie Charlie Recalcati. Palla spicchi. Torniamo insieme, sempre Pietro Scibetta qui a farmi compagnia, a chiacchierare con me, con voi. 800 24 00 24, se volete intervenire per Eurosport, commenti l'Eurocup, un Eurocup in cui Treviso sta andando come un treno. Sono molto contento per il mio amico Sasha Djordjevic, ma queste sono mie ragioni personali. Sono molto contento per Treviso, che è ancora in cerca di autore, di certezze. Un nuovo proprietario, perché sappiamo benissimo ormai che si avvicina il momento in cui la famiglia Benetton lascerà la pallacanestro, e questo è un peccato gravissimo anche per tutto quello che ha rappresentato Treviso, che ha saputo rappresentare anche oltre il campionato italiano. Treviso ormai è diventata anche agli occhi di scout NBA e di tantissimi addetti ai lavori un riferimento. Basti pensare a tutti gli eventi, all'Eurocamp che si tiene a giugno, che permette agli scout di vedere tutti i migliori talenti europei in odore di draft, e tutta una serie di cose collegate al mondo poi della Ghirada, di Verde Sport, che francamente sarebbe un peccato disperdere come patrimonio nostro. E stanno facendo una grandissima Eurocup, davvero sorprendente, anche perché hanno battuto due volte adesso il Lokomotiv Kuban di coach Malikovic. E soprattutto la cosa che mi fa piacere è che Georgevic è riuscito a dare spazio e tantissima fiducia a una squadra che è stata continuamente cambiata, che ha perso tutti gli americani che ha firmato all'inizio stagione per il lockout, lo sappiamo bene, sono andati via Adrian, Scalabrini e Moore, ma ci sono giocatori come De Nicolao, come lo stesso Cuccarolo, come tanti ragazzi italiani, a volte dà fastidio chiamarli giovani, perché uno come Cuccarolo ormai lo vediamo da diverse stagioni. Non sono giovani, Pietro, ma serve sempre un allenatore. Serve un allenatore, esatto. Al di là di tutto quanto, è l'allenatore che dice: io ho questi giocatori, io li fatemi, io li faccio giocare, non c'è problema. Ci ho parlato prima dell'inizio della stagione, lui condivideva un pensiero che era proprio di Bozo Malkovic, il quale una volta sostenne durante un'intervista: a 22 anni un giocatore non è giovane, un giocatore è già con esperienza o senza esperienza, perché un giocatore giovane a 18 anni, se è bravo, deve già giocare. Sicuro. Ed è quello che sta cercando di fare Sasha, e chiaramente entrare in campo sapendo che ci vai per giocare e non per 2-3 minuti, e se sbagli sei di nuovo in panchina, cambia tutto. Anche nella testa di un giocatore si approccia l'errore in un'altra maniera, e c'è subito magari la voglia di riprenderlo questo errore e di compensarlo con una cosa positiva. Sì. È tutto un altro modo di stare in campo, e questa cosa qui Sasha la sta trasmettendo perfettamente ai suoi giocatori. Ascolta, un'altra notizia della settimana è quella relativa a Cantù, di cui abbiamo parlato prima, che dice: va bene, Palazzetto non ce lo fate, Adesio ormai è diventata casa nostra in Eurolega e c'è un bel ambiente, un bel clima, eccetera. Sapete che facciamo? Ci trasferiamo lì per i playoff che verranno, per i playoff della prossima primavera, e magari, chi lo sa, in pianta stabile. Forse uno strappo era necessario in questo rapporto difficile ed estenuante con l'amministrazione, con questa esigenza di una casa che ormai da 30 anni è questa casa che non c'è ancora. Guarda, noi siamo qui a pochi centinaia di metri dal Paralido, che al momento non sappiamo quando e se diventerà la nuova casa dell'Olimpia Milano. Il problema degli impianti è un imbarazzo, secondo me, per l'Italia sportiva. Noi siamo quelli che siamo andati a fare una richiesta per avere i mondiali del 2013 presentando il Parco delle Stelle di Gilberto Sacrati come primo campo. È un campo che non c'è, non ci sarà mai, e sappiamo Gilberto Sacrati quale difficoltà ha affrontato con la sua fortitudo. Secondo me, pensare anche solo di andare avanti in questo momento a quella che si chiama adesso NGC Arena, ma che è il Pianella di Cucciago, è incredibile per una società che ha le ambizioni e i mezzi di Cantù. Sì. Pensare di giocare l'Eurolega, ma anche solo delle partite che valgono lì lo scudetto, ormai è improponibile. Adesio si è creato effettivamente un bel rapporto con questo palazzo e col pubblico, perché fanno sempre 6.000 persone, c'è un ambiente caldissimo, c'è il piacere anche di vedere la partita in un altro modo. Io credo che sia una scelta ovvia presa fatta dalla società in considerazione di questa esperienza, e credo che debba essere assolutamente un invito ultimo alle istituzioni locali per dare a questa società una casa degna, certo, di questo nome. Ovviamente uno strappo di questo tipo è necessario. Guardiamo alla giornata di campionato che ci aspetta, un solo anticipo domani 16:10 sulla 7D, come sapete, con ascolti che insomma sono incredibilmente bassi per Sassari Cantù, proprio la prima trasmessa sulla 7 digitale, 0,35%, 50.000 persone hanno visto questa partita. Vi lascio ogni commento se volete, 800 24 00 24. Domenica alle 18:15 vedremo Milano contro Sassari, Siena contro Biella, Montegranaro contro Venezia, Pesaro contro Cantù, Casale Monferrato contro Caserta. Il posticipo delle 20:30 sarà Cimberio Varese, Acea Roma, e presentiamo, come facciamo già da qualche settimana, una di queste partite scelta da un tuo amico, socio di microfono. Assolutamente. Già Maria va circa, ma la presentiamo parlando sì di basket, ma anche di tavola. Via. Basket Chef. Ho vissuto nelle Marche per più di 3 anni ed è un posto che ti rimane sotto la pelle. Una regione straordinaria, ancora poco conosciuta, nonostante sia uno degli avamposti del Made in Italy e vanti leadership indiscusse in tanti settori. Le scarpe, le cucine, gli elettrodomestici sono al top dei top mondiali. Dustin Hoffman, il grande attore, che decanta all'infinito i leopardi dall'Ermo Colle, è l'immagine scelta dalla regione negli ultimi 2 anni per promuovere bellezze di un territorio che ti porta dal monte al mare in 20 minuti. Montegranaro, che domenica ospita Venezia, quest'anno gioca in Ancona, si dice così, in Ancona, nel rispetto degli slang indigeni, a mezz'ora dal paese e a pochi passi da Porto Novo, una baia verde sotto il monte Conero, dove non si possono costruire case e si fa il bagno in acque magiche con la pancia piena di moscioli, le cozze locali che si riproducono naturalmente e vivono attaccate agli scogli sommersi sotto il Conero, nel tratto di costa che va da Pietra alla Croce fino al confine tra Sirolo e Numana. Al centro questa baia incantata, piena di piccoli ristoranti sulla spiaggia, aperti tra aprile e ottobre, nel periodo di pesca del mollusco più ambito, che è perfetto sugli spaghetti corti al dente col pomodoretto, come direbbero qui, ma che i pescatori amano mangiare appena pescati, aperti su una lastra posata sul fuoco, senza condimento, oppure aperti in pentola, con aglio, prezzemolo, olio e pepe, ma anche nel brodetto all'anconetana, però, dove i moscioli sguazzano insieme ad almeno altri 13 tipi di pesce, tanto pomodoro e delle belle fettone di pane brustolite e strofinate con l'aglio. Lo avete capito, le Marche sono un paradiso anche a tavola, e se non vi piace il pesce e volete salire a Montegranà per respirare l'odore del cuoio, dell'oprosità del basket all'infinito, non negatevi un piatto di ciauscolo, un salame bello grasso come piace arricchito del vin cotto e una porzione gigante di vincis grassi simili alle lasagne, ma non ditelo ai marchigiani, perché rigagli di pollo e tartufo fanno la differenza, proprio come Zoro Zoroschi e Dejan Ivanov. E allora mamma, butta la pasta! Dici, ti piace Basket Chef? Assolutamente sì, tra l'altro teacher. Esatto, dal suo blog, che ovviamente è l'ultima creazione della mente di Gianmaria, che sì, deve sempre trovare un modo di stare acceso, perché altrimenti si annoia. Senti, ma invece cambiamo decisamente argomento e torniamo sui nostri dell'NBA. Questi elogi di Obama ai nostri ragazzi, come li trovi? Non so se abbia mai ricevuto la famosa lettera di Sabatini, questo non lo so. Questo non rimarrà un mistero. Non sono pervenute risposte, però a distanza di mesi e indirettamente dice, però bravi i vostri, danno comunque lustro all'Italia, si sta comportando bene qui da noi. Sì, si è dimenticato Bagnani, però vabbè, gliela perdoniamo, perché già un presidente degli Stati Uniti che nomina due nostri cestisti è un evento più unico che raro. Dimostra, secondo me, solamente il fatto che Obama è evidentemente una persona che sa prepararsi molto bene ai suoi interlocutori e ovviamente sa tirare fuori delle immagini che possano catturare l'attenzione di tanta gente. Ovviamente il fatto di nominare come esempi positivi dell'Italia due giocatori, come due ragazzi, anche come Danilo e Marco, non può che far piacere a tutti quanti, in particolare a loro, perché ho visto Danilo già esultare su Twitter per questa cosa, giustamente, perché non so a quanta gente possa capitare poi di ricevere i complimenti dal presidente degli Stati Uniti d'America. Il buon nome dell'Italia nell'NBA. Tra l'altro, una riflessione che abbiamo fatto, che ovviamente non credo significa assolutamente nulla per quanto riguarda l'insieme del nostro movimento, ma solo significa che dalle nostre parti ci sono state eccellenze importanti. Maurizio Gherardini è, credo sia l'unico dirigente europeo nella storia della NBA, peraltro ad avere un ruolo importante. Ettore Messina è andato da italiano e quindi da europeo su una panchina come quella dei Lakers. Abbiamo dei giocatori, però mi piace sottolineare il fatto che riusciamo a produrre non solo giocatori, perché poi altri paesi hanno prodotto molti più giocatori di noi e continuano a produrne, ma che riusciamo anche a portare altre personalità, altre professionalità all'interno di un mondo complesso e bello come quello della NBA. E sarà anche il caso magari di aumentare il numero. Tra l'altro oggi Pianigiani in un'intervista, riferendosi ai giocatori, ha detto: non trovino i nostri giovani qui non riescono a trovare spazio per molti motivi che conosciamo peraltro, è ora che vadano all'estero, è ora che emigrino, è ora che chiudano insomma i loro sogni nella valigia, non so se di cartone o di pelle pregiata, però che cerchino spazio in campionati dove possono trovarlo. E questo lo trovo estremamente condivisibile, questo pensiero di Pianigiani, che peraltro abbiamo espresso da questi microfoni molte, molte volte. C'è anche chi scrive, ovviamente, per un tifoso il Pianella ha sempre un fascino insuperabile e non faccio fatica a credere, lo so perfettamente. Oppure Emanuele da Pisa: io il basket lo vedrei volentieri, ma la 7 non l'ho più vista dopo il passaggio al digitale. 800 24 00 24, se volete intervenire. Vi dico già che dopo il traffico andremo in America, caro Pietro Cibetta, per raccontare quella che secondo me è la storia della settimana, forse di questo inizio di stagione, storia che arriva da New York City. Palla spicchi. Dunque, Pietro Cibeda, come detto, facciamo un salto a New York City, dove c'è questa storia incredibile, che è quella di Jeremy Lin. Come sia possibile passare da insulti anche a sfondo razziale, tipo maiale in agrodolce, all'essere il Yellow Mamba, cioè quello che carneade assoluto esce dalla panchina dei New York Knicks di un disperato Mike D'Antoni sull'orlo del licenziamento, entra e... così, non so quanto durerà, ma per 2, 3, 4 partite cambia il destino dei derelitti Knicks. Simone Sandri, ciao. Buon pomeriggio Carlo. Yellow Mamba. Ciao Simone. Ciao Pietro. Jeremy Lin, grande, non è un giocatore di basket, è stato un grande studente, un cervellone di Harvard, uno che aveva voglia di giocare a basket, che ci ha provato con tutte le sue forze, che è riuscito ad entrare per un pelo comunque nei roster NBA, nel momento della disperazione D'Antoni lo chiama, tanto perso per perso vai dentro tu, e questo cosa combina? È una storia davvero incredibile quella di Jeremy Lin, questa l'insanity che sta contagiando un po' tutti a New York dopo sole 3 partite, perché come dicevi tu, questo è un giocatore che viene dal nulla, è un ragazzo che avrebbe dovuto fare l'accountant perché ha studiato ad Harvard, era un vero genio del computer, e avrebbe però ha deciso di giocare a basket. L'anno scorso ha fatto questa stagione assolutamente anonima a Golden State, praticamente non ha mai giocato ed è stato spedito nella D-League in tre diverse occasioni. Poi quest'anno è stato tagliato all'inizio dell'anno dai Warriors, è andato a provato con Houston durante il camp, è stato tagliato anche da Houston ed è stato preso dopo Natale da New York, l'idea che sarebbe stato il 13° giocatore della rosa dei... Ma sai, doveva andare Pietro Cibetta? Doveva andare a Teramo, è stato vicino anche a firmare per Teramo poco prima della fine del lockout. Poi questa ovviamente la chiusura della serrata NBA ha impedito questa opportunità a Teramo più che a Jeremy Lin, perché si è ritrovato ai New York Knicks. Peraltro Simone, ieri su Twitter Daryl Morey si è ritrovato a dover giustificare questa scelta con dei tifosi che gli chiedevano in continuazione come mai non ve ne siete accorti, a Houston, sì, perché non siete riusciti a valutare il talento di Lin, e lui al termine di un dibattito estenuante ha detto: vabbè ragazzi, evidentemente non siamo riusciti a capire che era così bravo. Ma è davvero così bravo Jeremy Lin? Esatto, questo il problema di fondo è questo. Se la discussione è, secondo me ci sono due analisi da fare. Se la discussione è la storia di Lin è una storia straordinaria, fantastica, siamo tutti d'accordo. Se vogliamo dopo 3 partite dire che Jeremy Lin è un giocatore straordinario, un fenomeno, uno che del quale nessuno si era accorto, secondo me è un po' presto, perché ci sono dei precedenti. Noi non dimentichiamo che all'inizio dell'era d'Antonio a New York Chris Duan aveva numeri alla Steve Nash nei primi 3 mesi del suo anno da Knicks, perché per principio il gioco di Mike è strutturato in maniera che se un playmaker è disciplinato sicuramente può avere ottimi numeri, può avere statistiche di tutto rispetto, e sicuramente Lin è un giocatore disciplinato che fa quello che gli viene richiesto. E per questi Knicks che nella posizione di playmaker facciamo giocare Shumpert o Tony Douglas, due giocatori di cui si può dire tutto che sono degli atleti, degli ottimi atleti, anche dei discreti tiratori, sicuramente non si può parlare di disciplina come di della loro caratteristica migliore. Per cui io sono convinto che la storia di Jeremy Lin deve essere presa un po' con grano salis, perché è una storia in questo momento fantastica. Aspettiamo un attimo a vedere se è un giocatore eccezionale, ha battuto 3 squadre così come Utah, Nets e soprattutto Washington, che è una squadra, come in America la considera una squadra di D-League, della diciamo minor league dell'NBA. Adesso vediamo, adesso incominceranno i problemi, perché quando rientreranno i giocatori di un certo peso come Carmelo Anthony e Amare Stoudemire diventerà ancora più difficile fare il playmaker per un giocatore sconosciuto a New York, perché quando questi ti chiedono la palla bisogna vedere se riuscirà a rimanere disciplinato. Per adesso è sicuramente una storia fantastica. Sì, quella che ha salvato la panchina di D'Antoni al momento, e non credo però che D'Antoni insomma riuscirà a rimanere lì a lungo, troppo deteriorata questa storia. E poi ha spento Simone anche l'attesa per Baron Davis, che stava arrivando a dei livelli mai visti proprio per questo problema della assenza di una vera e propria point guard. Adesso è arrivato Lin, per il momento Baron Davis lo aspettiamo con più calma. Peraltro, dicevo a Carlo prima, mi ricordava questa esplosione di Lin, quella famosa partita di Nate Robinson, no? Settimana in panchina, poi dentro 24 minuti, 41 punti. Sì, è vero, Nate Robinson è un giocatore un po' particolare, perché ha avuto sempre questi alti e bassi incredibili, ed è vero, è stato in un momento in cui era assolutamente fuori dal line-up, e veniva considerato anche sul piede di partenza. Mi ricordo questa partita straordinaria d'Atlanta dove non sbagliava praticamente mai, in un momento anche particolare della gestione di Antoni, e vale un po' lo stesso principio adesso, perché giustamente Carlo dice ha salvato la panchina di Antoni. In effetti in questo momento l'attesa per Baron Davis era diventata paradossale, perché addirittura si diceva che i problemi alla schiena fosse l'unico, si parlava anche di un'infezione, si parlava del fatto che comunque avesse dei grossissimi problemi di rieducazione Baron Davis, per cui uno dei motivi per il quale D'Antoni comunque è riuscito a rimanere aggrappato alla panchina era l'attesa di Baron Davis, perché la proprietà voleva dare la possibilità a Mike D'Antoni di dimostrare un po' che il suo basket potesse funzionare anche con un giocatore un po' egoista come Carmelo Anthony e con Stoudamire, grazie a un playmaker come Baron Davis. E poi dal nulla si è trovato questo ragazzo di origine taiwanese che di colpo è diventato l'idolo del Madison Square Garden, per cui da un certo punto di vista è stata anche una bella fortuna, e anche per questo credo che la storia di Jeremy Lin abbia questo eco straordinario, perché fa parte, perché non solo è capitata, che se vogliamo proprio considerarlo da un punto di vista puramente di basket, stiamo parlando di un giocatore che ha vinto 3 partite consecutive con una squadra che era 8, aveva un record di 8-15. Se questa squadra non si chiamasse New York e non avesse dei giocatori come Carmelo Anthony e Amare Stoudamire nel proprio quintetto, sicuramente avrebbe assunto una prospettiva completamente diversa questa di Insanity. Però per tutto il contesto è veramente qualcosa di incredibile. Sì, e la seguiremo con grande curiosità, anche se ho l'impressione, sarò pessimista, ma credo sia solo un raggio di sole per un New York che sta vivendo una stagione nerissima. Simone, grazie, a presto. Grazie, io la vedo esattamente come te. La vedi come me. Voglio fare il gufo, ma esattamente come te. Con tutto l'affetto che ho per D'Antoni e per i Knicks, che sono la mia squadra. Mi unisco al coro. Tra l'altro siamo passati dai We Want Shumpert urlati a D'Antoni alla Linsanity, quindi testimonia ancora della confusione. Esatto. C'è un po' di confusione nella grande mela. Pietro, torna presto a trovarci, è stato un piacere. Grazie. Grazie davvero a Pietro Scibetta, buon lavoro, grazie a Franco Piantaneda per il lavoro in redazione, a Filippo Aureggi in regia. Con lo sport naturalmente ci sentiamo domani pomeriggio dalle 5 alle 6. E poi ci sentiremo come ogni domenica dalle 16.30 alle 19, e il basket torna su questi schermi con Palla Spicchi alle 20.30 di domenica sera per raccontarvi la giornata di campionato. Buona giornata a tutti.